Montecitorio e dintorni di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno. Questa volta Montecitorio e dintorni vuole andare verso un neodeputato del Partito Democratico per capire che cosa sta cambiando all'interno del partito. Abbiamo con noi questa mattina Pippo Civati. Buongiorno. Buongiorno a voi. Come vede questa faida che sta imperversando nel Partito Democratico tra Matteo Renzi e Pierluigi Bersani? Matteo Renzi ieri ha detto: io non voglio fare il governo con Berlusconi, però insomma poi un po' forte di questi nuovi sondaggi che lo danno con un Partito Democratico al 36% se lui fosse alla guida del PD. Ma io sono per mantenere un po' di calma, nel senso che mi pare che la sfida più importante che abbiamo di fronte riguardi l'elezione del capo dello Stato, comunque un passaggio fondamentale per la vita democratica, non solo evidentemente del mio partito, ma di tutto il Paese in un momento così complicato e delicato. Io non capisco molto perché si debbano aprire dibattiti e quasi un congresso nei giorni precedenti un passaggio così importante, quindi non mi schiero, non mi interessa. Sappiamo che Bersani sta cercando di gestire una fase appunto molto complicata, forse Matteo Renzi potrebbe aspettare qualche giorno e poi misurarsi con l'eventualità di nuove elezioni, che sicuramente lo vedrebbero tra i protagonisti assoluti. Ma lei perché è considerato nel partito, io sentivo un po' dei gossip, un ex renziano? Che cosa l'ha fatto cambiare idea? No, io non sono mai stato renziano. Con Renzi abbiamo fatto una cosa che poi è diventata molto famosa, la prima stazione Leopolda, l'abbiamo interpretata insieme, abbiamo molti punti in comune e poi le differenze sono emerse nel corso del tempo e degli anni. C'è un approccio soprattutto nei confronti del Partito Democratico molto diverso da parte mia, mi sembra che il suo sia molto critico e molto insomma di contrapposizione con non solo con l'establishment ma in generale con la vita del PD. Io mi sento molto più vicino invece, non tanto appunto ai dirigenti, ma forse ai nostri elettori, insomma, sono meno creativo, meno fantasioso. Lui piace molto al centrodestra, come sappiamo, io ritengo di essere un più tradizionale come politico, come figura politica. Beh, ma lei sembra un po' un grillino, perché io il primo giorno a Montecitorio, lei viene chiaramente dalla Lombardia, quindi a Montecitorio noi non l'avevamo conosciuta personalmente, io l'ho scambiata per un grillino, aveva lo zainetto, insomma il look era un po' quello del Movimento 5 Stelle. Ma il look è quello delle persone normali che andavano a Montecitorio il primo giorno a fare i certificati, che abbiamo scoperto essere un'operazione tra l'altro lunghissima e complicata, per cui ho fatto bene ad essere casual e con lo zainetto, come fanno tutti quelli che sono fuori porta in quel caso, perché era davvero la mia prima esperienza. Poi insomma è chiaro che quell'aula impone un decoro e uno stile diverso, ma mi pare che anche i grillini siano molto eleganti, per cui è difficile distinguerli ora, più di prima. Però sono andati in un agriturismo a fare una riunione, non in streaming questa volta, no? Hanno preteso una riunione in streaming con Bersani e invece poi per parlare tra di loro hanno scelto un agriturismo vicino a Roma, insomma. Grillo se ne è uscito anche col fatto che sulle larghe intese la gente prenderebbe i bastoni, no? C'è sempre questa retrospettiva di guerra. Che cosa risponde a Grillo e che cosa risponde di questa, diciamo così, doppio registro, no? Streaming e poi invece ipersegretezza. Ma non lo so, che non lo capisco, mi pare che i toni siano sempre esagerati. In verità quello che sta creando Grillo intorno al Movimento 5 Stelle è un po' di coltre fumogena, diciamo, non si capisce bene che cosa stiano combinando. A me dispiace perché, come sa, al di là dello zainetto, da tempo cerco un confronto con loro che non sia basato sugli improperi e sulle battute quotidiane, ma su un'analisi della situazione. A me le larghe intese non piacciono, penso anch'io che verrebbero con i forconi e probabilmente verrebbero alle sedi del PD a portarceli, però insomma il modo per sventare l'ipotesi delle larghe intese è quella di aprire un confronto con chi al Movimento 5 Stelle ha offerto più di una sponda in questa fase, una sponda che è stata rifiutata fino adesso e che invece io credo che si debba misurare soprattutto sull'elezione del Presidente della Repubblica. Se Grillo, invece di insultare il centro-sinistra, il centro-destra, tutti quanti, avesse cura del fatto che il suo movimento può contribuire a scegliere il Presidente della Repubblica, forse saremmo ad una fase diversa, nuova e più interessante. Ecco, però lui dice che il nuovo capo dello Stato sarà molto diverso da questo. Noi sappiamo che a un certo punto c'è stata addirittura la lettura di un labiale, no? Che evidenziava il fatto che Grillo era stato stupito da Giorgio Napolitano, gli era piaciuto molto. Che cosa vuol dire il nuovo capo dello Stato sarà molto diverso da questo? Ma non lo so, guardi, a me sembra che siano un po', sia un po' un linguaggio da profeta più che da politico. Piace molto evidentemente agli elettori, però forse a questi stessi elettori viene il dubbio che ci vorrebbe un po' di concretezza. Pippo Civati, noi abbiamo detto lei è un neoeletto, non è passato molto il messaggio, comunque è una persona che ha fatto politica sul territorio, no? Però non è passato molto il messaggio che il PD ha rinnovato gran parte della sua dei suoi parlamentari. Per quale motivo secondo lei? Ah, perché non ci abbiamo creduto a sufficienza, questo è stato uno degli errori anche della fase elettorale. Noi abbiamo fatto le primarie, io personalmente sono stato eletto con un numero di voti molto significativo, per cui ancora ringrazio gli elettori. Quanti voti? No, perché i 5 Stelle alcuni sono entrati in Parlamento con 100 voti online, lei quanti voti ha avuto? Il numero esatto non lo ricordo nemmeno io, ma sono tra 5 e 6 mila, per cui insomma sono stato tra i più votati in Lombardia, per cui abbiamo non solo rinnovato, ma scelto gli strumenti di partecipazione molto più aperti del solito, che in qualche modo hanno addomesticato il porcellum dal solito, e questo lo fa il Partito Democratico. Ma non crede che questa pesantezza d'apparato che denuncia Matteo Renzi, no, riguardo al vecchio apparato, alle direzioni nazionali che sembrano poi delle sedute, no, di autoanalisi, sia un po' superato? Beh sì, dopodiché guardi, io penso che il nuovo sia molto più impegnativo del vecchio, per cui da tempo cerco appunto di innovare le cose come le conosco e provare a sostituirle con qualcosa di diverso e di più efficace. Dire semplicemente che le cose non vanno bene, sì, fa prendere molti titoli sui giornali, ma forse cambia poco. Se ci pensa, la scelta di fare le primarie per i parlamentari ha cambiato la composizione del Parlamento, era una mia battaglia storica, nessuno ci credeva, e poi finché Bersani non ha detto di provarci, insomma, tutti avevano lo scetticismo di chi dice non cambierà mai nulla. Quello è cambiato, forse bisognava cambiare altre cose. Io penso per esempio che il Bersani dopo la campagna elettorale sia molto più forte del Bersani che abbiamo visto in campagna elettorale, ma me ne dispiace, non lo uso come critica per dire avrei fatto meglio, no, tocca a me. Forse tocca a noi che il PD dovrebbe frequentare di più, perché sembra un partito che parla più per correnti che per le cose che ha da proporre agli italiani, che sono numerose e che spesso si perdono tra formule, rivalità. Lei ha iniziato l'intervista dicendo c'è una faida nel PD, che insomma fa pensare davvero al fatto che scorra pure del sangue dal punto di vista politico. In verità, secondo me, dovremmo essere più lineari, più chiari e più coraggiosi nelle proposte, nelle scelte, perché spesso siamo sembrati timidi, ed è quello che è capitato anche nei confronti di Berlusconi. Il grande successo di Grillo è anche una forte critica alle modalità con cui il PD in questi anni ha svolto un lavoro di opposizione in Parlamento, ma soprattutto nel Paese, che è sembrato spesso troppo timido. Allora noi ringraziamo Pippo Civati, deputato del Partito Democratico, e per quanto mi riguarda auguro un buon weekend a tutti. Un saluto da Elisabetta Fiorito. Grazie. Grazie a voi.